Tutto chiaro? Mettiti alla prova. A. Ascolta e completa il testo. Un nuovo servizio ti aiuta a organizzare meglio il tuo lavoro. Ti informa prima di confermare un bonifico. Ti aiuta a programmare i pagamenti. Ti informa delle nuove promozioni. Pindaro è il sistema che ti conosce da sempre. È con te dal giorno in cui hai aperto il tuo conto in banca e, giorno per giorno, segue i tuoi passi. Trovi tutte le informazioni alla pagina web www.pindaro.it.